La donna immobile, quale piuma in vento, muta d'accento e di pensiero. Sempre un amabile, leggiadro viso, in pianto, in riso, e menzognero. La donna immobile, quale piuma in vento, muta d'accento e di pensiero. Piano, chi su quel seno